Allora, eccoci, dovremmo essere in collegamento con il professor Massimo Zucchetti. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i compagni ascoltatori. Buongiorno Massimo. Allora, questo collegamento lo avevamo annunciato anche la settimana scorsa, purtroppo era saltato. Oggi insomma ci ritroviamo tra l'altro in una data abbastanza insomma, particolare, 20 luglio 2011. Parlavamo poc'anzi per l'appunto di Genova, certamente un trade union rispetto a questo tema del gas CS tra Genova e la Val di Susa esiste. La prima cosa che volevo chiederti, Massimo, insomma, questo gas CS è entrato in dotazione delle forze di polizia nel 1991, poi però la prima volta, almeno così sembra, che il suo utilizzo è stato così elevato e prorompente, dispiegato a livelli di massa, è stato proprio nelle giornate del G8 genovese 10 anni fa. Lo abbiamo poi visto impiegato in modo davvero, davvero massiccio in Val di Susa. Sembra proprio che ci sia, ecco, sarà scontato, ma insomma, una certa proporzionalità tra l'uso di certi strumenti particolarmente offensivi e diciamo la portata di grandi eventi, soprattutto di grandi lotte. Come a significare che quando la posta in palio è molto elevato, insomma, lo Stato si libera di qualsiasi tipo di orpello buonista e va giù pesante, insomma, senza alcun tipo di problema, fino ad usare addirittura armi chimiche sulle popolazioni. Sì, obiettivamente il fatto che oggi ricorra il decennale dell'assassinio di Carlo e che in quel giorni una popolazione del tutto inerme che era andata a manifestare per proprio far vedere la propria disapprovazione, non certo verso le forze di polizia, ma verso proprio il capitalismo. In quel momento Genova era la capitale del capitalismo col G8, è stata aggredita da questi gas che sono, a partire dal 1997, proibiti per ogni utilizzo in scenari bellici da parte di una convenzione internazionale che è stata ratificata il 29 aprile del 97 dall'Italia. Quindi uno penserebbe, uno diciamo normale pensa, vabbè, non le puoi usare in guerra e quindi neanche in tempo di pace, ecco. E quindi neanche in tempo di pace, questo non c'è scritto da nessuna parte. E allora loro si basano su questa piega assurda della legislazione e dal 1991, con un decreto DPR del 5 ottobre, loro hanno in dotazione artifici sfollagente per lancio a mano, artifici per lancio con idoneo dispositivo con arma lunga, contenente una miscela di CS o agenti similari. Quindi in guerra, se noi dobbiamo andare a portare la democrazia agli afghani, agli iracheni, ai libici, non possiamo usare il gas CS. Però se invece dobbiamo attaccare una popolazione inerme a Genova oppure in Valle di Susa, allora va bene. E tra l'altro, insomma, davvero ci riporta tutto quanto alla dimensione della guerra, Massimo, perché poi insomma questo tipo di gas sono stati usati in passato, sembra insomma in Vietnam, oggi o in anni più recenti l'uso insomma ne ha un uso abbastanza insomma forte ne ha fatto Saddam nei confronti delle popolazioni curde, e ancora oggi lo si fa insomma nei confronti dei palestinesi da parte di Israele. Davvero insomma anche queste similitudini insomma ci fanno capire quando insomma è impiegato questo tipo di gas, e insomma sul fronte interno è stato impiegato anche a Terzigno e a Bosco Reale, sempre in condizioni di grande militarizzazione comunque. Quindi l'annuncio insomma dell'impiego di queste sostanze è proprio dato dal livello di dispiegamento militare, insomma, generalmente. Esatto, tra l'altro c'è proprio un filo che in qualche modo ci unisce, perché loro non se ne rendono neanche conto, ma alla fine a parte il danno che ci fanno, a parte, poi ne parliamo un attimo se vuoi, abbiamo scoperto recentemente da dopo Genova, uscita dalla letteratura, che fa vedere come questi gas sono anche cancerogeni, ma proprio quanto hai tu messo in evidenza, volevo rimarcarlo su il campeggio NOTAF che noi stiamo organizzando in questi giorni, in queste settimane a Chiomonte, proprio sotto le barricate, la militarizzazione, il filo spinato imposto dallo Stato. Il 12 luglio abbiamo proiettato una serie di diapositive, Kurdistan, il paese che non c'è, quindi un incontro anche con l'associazione verso il Kurdistan. Tu parlavi prima proprio dell'utilizzo di questi gas verso i curdi. Il 18 io ho fatto una lezione classe mista, il 15 scusa, sui gas lacrimogeni e cancerogeni, in cui parlavo sia ai NOTAV che anche ai poliziotti oltre la rete, oltre la recinzione. E poi avremo con noi per un incontro Heidi Giuliani domenica 24, proprio per parlare di Genova 10 anni dopo. Io credo che loro non se ne rendano neanche conto, ma questo fatto di continuare a gasarci tutte le volte che noi chiediamo soltanto il rispetto dei nostri diritti, usando tra l'altro un materiale che ha delle conclamati effetti collaterali a lungo termine, è una cosa che non fa bene certo a noi, però alla lunga non farà bene neanche a loro. Senti, allora parliamo meglio, in modo un po' più approfondito, dei danni e degli effetti su uomini e donne che li subiscono di questi gas CS, dei danni anche se esistono e se è vero permanenti, Massimo. Certo, innanzitutto ci sono alcuni effetti, diciamo, semi-permanenti, immediati, al di là del fatto che ci dicano ti fa solo piangere un po' e venire un po' di tosse così e ti fa gonfiare un attimo la faccia. Ci sono moltissimi casi, si sono avuti nei giorni e nelle ore successive, di laringospasmo, cioè di laringite spastica, che è una condizione in cui ti sembra di soffocare, ti si contraggono i muscoli della laringe e in alcuni casi ci sono stati anche casi in cui questo ha portato al soffocamento. C'è anche la sindrome da stress respiratorio, un danno diffuso ai capillari e che può provocare mancata ossigenazione di alcuni organi del corpo, e alla fine ci sono anche casi in persone deboli, certamente, si può arrivare alla morte del paziente. Poi ci sono ovviamente gli effetti sulla pelle, le reazioni allergiche. Ci sono molti casi di persone che sono rimaste sfregiate quasi per sempre dall'utilizzo di questi gas. Cioè la letteratura scientifica sulla quale loro si basano per dire che è innocuo è vecchia di 30 anni. Se uno guarda quella recente scopre ben altro, e tra l'altro, ciliegina sulla torta, scopre che questo tipo di gas ha un effetto teratogeno, cioè in altre parole vuol dire che è in grado di provocare l'insorgenza di cellule neoplastiche. Parlo meno difficile, è cancerogeno, non ha un effetto di danneggiamento del DNA e quindi si era scoperto, pensato che non fosse cancerogeno. Studi più recenti hanno fatto vedere che può far nascere, per chi è interessato, basta che cerchi il mio rapporto che ho messo in rete, può far nascere alterazioni di tipo cromosomico diretto, per cui le cellule diventano cancerogene anche senza avere il DNA modificato. Tutto questo non viene recepito, per cui è tutt'altro che un gas innocuo. Lo Stato di New York recentemente ha considerato la possibilità, sai che lì usano qualunque cosa per difesa personale, di concederlo o meno come spray per difesa personale, e l'ha vietato proprio sulla base degli studi dell'ente dell'ambiente americano. Allora, io non capisco per quale motivo. Noi sì, d'accordo, certo, ci vogliono far diventare terzo mondo, macelleria messicana, ci vogliono in qualche modo far dimenticare che abbiamo una Costituzione e una serie di legislazioni, però vediamo di non raccontarcela. Ci state facendo una guerra, usate delle armi chimiche. Molto bene, basta dirlo, ma non ci dite che questa roba non ci fa niente. Noi adesso in Val di Susa stiamo raccogliendo le casistiche di tutte le persone che sono rimaste intossicate, che hanno avuto effetti nelle settimane successive, e loro stessi si sono comunque traditi, perché ci sono stati 110 poliziotti ricoverati, si sono tutti ovviamente andati a refertare con sintomi da intossicazione da CS, 107 codice verde, quindi non erano gravi, e 3 meno gravi. Se tu vai in ospedale, o lo ci vai per finta, o se ci vai per davvero vuol dire che tanto bene non stai, o mi sbaglio? Forse è una logica, come dire, da black bloc. Sono un black bloc. E questo, insomma, chiaramente la dice lunga anche su quanto è avvenuto il 3 luglio, le cifre dei feriti che sono state rilasciate dalle veline della questura, che parlavano di 188, quasi 200 feriti tra le forze dell'ordine. Ecco, ecco svelato il mistero da questo punto di vista rispetto sì, a voi. Scusa se sì, ti interrompo. Sì. Togliamo le unghie incarnite, togliamo quelli che sono andati a farsi un giro, togliamo quelli che sono stati colpiti dal fuoco amico delle pietre che loro stessi dal cavalcavia tiravano sotto, e a volte invece che beccare noi si sono beccati da soli. Togliamo tutta questa roba, avranno avuto una decina di feriti non gravi, e il resto erano tutti intossicati dal CS. Noi altri ovviamente non abbiamo potuto andare a farci refertare. Io ho visto Marco Revelli, che è il più grande intellettuale italiano in questo momento, che tranquillo, senza fare drammi, risaliva, lui ci avrà più di 60 anni, risaliva dal fondo, dalla diga, ci siamo guardati e lui mi ha detto è stata una giornata un po' pesante, c'aveva gli occhi rossi, tutte le venuzze, respirava a fatica, allora io gli ho fatto un po' di pronto soccorso. E poi Beppe Rosso, che è un bravissimo attore e regista qui di Torino, l'ha preso e l'ha portato a casa. Allora andiamo a farlo refertare anche lui, lo mettiamo nell'elenco insieme ai 200 feriti poliziotti, il più grande intellettuale italiano. E immediatamente, insomma, la percezione che quei gas fossero assolutamente nocivi l'hanno avuta anche i manifestanti, forse un po' più avvezzi a climi di piazza piuttosto tesi. Insomma, gli effetti immediati non sono assolutamente finiti con la giornata in valle. Nei giorni successivi, anche qui a Roma, abbiamo potuto raccogliere comunque le testimonianze di tanti compagni che ancora, insomma, avevano grandi problemi di respirazione, una sorta di insufficienza quasi polmonare nel respirare, insomma. Quindi, insomma, sicuramente è una cosa che ha coinvolto migliaia di persone, dato che l'uso che se n'è fatto è stato davvero di massa di questi gas in valle. Ma sì, ma c'è stata poi, appunto, adesso oggi si parla di Genova e non vorrei, come al solito, sminuire il fatto che si stia anche ricordando che è morta una persona e i fatti della Diaz, eccetera. Però se parliamo proprio di CS, a Genova c'è stata un'esposizione singola. In Val Susa noi saremo il primo caso, sia i poliziotti che lo useranno, sia noi che ce lo becchiamo, di esposizione prolungata. Perché per adesso è stato usato 3 volte, una volta il 27 giugno, una volta il 3 luglio e un'altra volta l'altro ieri notte, quindi sono 3 volte. È conclamato proprio anche dalla letteratura scientifica che è l'esposizione prolungata quella che dà fastidio. In questo momento finora non ci sono casi di cancerogenicità conclamata dal punto di vista epidemiologico sugli umani, proprio perché mancava il gruppo degli alto esposti, fortunatamente. La gente se lo prende una volta e via. E ci sono i dati sugli esperimenti sulle cellule, sugli animali, che ovviamente vengono esposti a più volte, eccetera. Non vorrei, ecco, chiediamo soltanto, visto che dalla Valsusa non ce ne andremo mai finché non se ne sono andati loro, non vorremmo che questo tipo di situazione portasse al che noi diventiamo il primo gruppo di alto esposti ai gas lacrimogeni, cancerogeni, al CS. Questo, se possibile, mi sembra un ulteriore prezzo da pagare, che non è una cosa accettabile, non solo per noi, per loro, per questi ragazzi, quelli che sono davanti, ma un po' per tutti, e anche per quelli che nasceranno successivamente. C'erano delle donne incinte il 3 luglio e mentre erano lì che campeggiavano tranquille, facevano il picnic con i bambini, sono state prese da queste nubi di gas lacrimogeni, non stavano facendo nulla, allora le abbiamo prese a strattoni e le abbiamo fatte salire su e le abbiamo portate via. Ma questo è un paese civile? Scusami. Senti Massimo, diciamo, che tipo di reazioni? Non mi sembra francamente che ci siano state grandi reazioni a queste denunce che sono partite fin dai giorni precedenti al 3, proprio perché un'altra esperienza di gasamento, la Valle l'aveva ricevuta identico trattamento pochi giorni prima. Non mi sembra, insomma, che ci siano state molte reazioni, e quindi i passaggi per decretare, semmai insomma si riuscisse a farli, il bando di queste attrezzature è ancora lontano, insomma. No? Certamente è una lunga marcia, ma noi la stiamo facendo. Noi adesso stiamo raccogliendo tutta la casistica degli alto esposti e di chi ha avuto, tramite una scheda, una cosa che stanno facendo i medici con un consenso informato, per non diffondere i dati personali, ma soltanto poi i dati clinici. Stiamo raccogliendo, e ce n'è una bella dovizia. Io personalmente cercherò di mettermi anche in contatto con il primario del CTO dell'ospedale di Torino, che ha visto i poliziotti, in maniera da costruire quello che vorremmo chiamare un libro nero, bianco sarebbe ma in realtà nero, sull'utilizzo e le conseguenze di questo gas, ovviamente facendoci forte di tutto quanto il Social Forum di Genova aveva fatto alla sua epoca per quanto riguarda il 2001. E sulla base di questo un senatore della Repubblica, che non nomino perché non vuole pubblicità, diciamo uno dei meno peggio che ci sono in questo Senato di nominati, ha promesso di fare un'interrogazione parlamentare. Ma questo è solo un pezzo, questo è solo una cosa, faremo delle denunce alle autorità competenti, questa cosa non la possono passare liscia, ma non solo ovviamente per, in realtà in uno stato decente, normale, i sindacati di polizia di fronte a queste evidenze, a queste cose, dovrebbero intervenire e dire ma qui c'è un'esposizione professionale che non è concordata a un agente cancerogeno. Ma siamo impazziti, poi non tutti i poliziotti hanno la maschera antigas, solo la prima fila. D'accordo. Allora Massimo, noi ti ringraziamo per tutte le spiegazioni che ci hai fornito, ti salutiamo e magari ci risentiamo in un'altra occasione. Grazie al professor Massimo Zucchetti, un buongiorno. Grazie a te e agli ascoltatori. Ciao. Κάθε στιγμή στη ζωή μου